Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Nefertiti era bella e Stalin no. Questo vi toccherà sentire nella puntata di Mebius di questa sera. Benvenuti a tutti e tutte e ascoltiamo insieme i titoli. La sua bellezza si tramanda da 3.000 anni, ma ora Nefertiti, grazie a studiosi italiani, ha un volto nuovo. Vaccinazione sì? Vaccinazione no? C'è un grande dibattito, ma cosa sarebbe successo alla popolazione mondiale senza i vaccini? Breve storia delle vaccinazioni. La fibra ottica è di plastica. Un brevetto del Politecnico di Milano mette a punto uno strumento flessibile ed economico per le connessioni di rete locali. La scienza tra campanili e minareti. Nonostante il dibattito pubblico si concentri sempre sulle differenze culturali, da entrambi i lati del Mediterraneo ci si misura con problemi scientifici simili. In vista del vertice di Copenaghen, chiediamo a Richard Müller, consulente scientifico della Casa Bianca, il suo punto di vista sulle fonti energetiche del futuro. E incominciamo proprio dalla regina Nefertiti. Siamo nel XIV secolo a.C., nell'antico Egitto. C'è un suo busto meraviglioso, una scultura conservata al Museo Altes di Berlino. Ma lei era davvero così? Era bella, questo sì, ma in questo servizio di Chiara Albicocco capirete quale differenza è stata individuata. Una bellezza straordinaria, fuori dal comune. Questa è la caratteristica di Nefertiti che più di ogni altra si è tramandata nei secoli, per quasi 3.000 anni. Ecco, oggi la bellezza del suo volto rivive grazie all'impegno e alla ricerca di due studiosi italiani, che grazie alla tecnica dell'imaging, di cui poi parleremo, ci mostrano quale fosse il vero volto della regina. Ecco, questa sera è qui con noi Franco Crevantin, che è uno di questi ricercatori che ci ha restituito la bellezza del suo volto ed è docente di etnolinguistica presso l'Università di Trieste. È anche egittologo ed è qui con noi questa sera. Buonasera Crevantin. Buonasera signora. È doveroso ricordare anche il suo collega, il ricercatore Stefano Anselmo, storico della cosmesi e truccatore che si è appunto occupato di questo aspetto. Ecco, dunque professore, la bellezza della regina era nota, era il simbolo della femminilità da sempre. Ma voi che tipo di lavoro e di ricerca avete svolto per mostrarci il volto reale? Abbiamo tentato di avvicinarci alla realtà, non è che siamo sicuri di esserci riusciti, semplicemente siamo partiti da quella che è stata una radiografia fatta del busto, cioè a dire si è, per così dire, rivisto il busto di pietra al di sotto dello strato di gesso. Il busto, mi scusi, quello famoso conservato a Berlino, giusto, che da un po' di anni al centro delle questioni se farlo tornare in Egitto o meno, sì. Esattamente. Oh, e il busto soggiacente ha qualche particolare fisionomico piccolo, ma leggermente diverso da quello che si vede in superficie. Da questo siamo partiti e attraverso una sovrapposizione di particolari, di volti umani reali, di donne, cioè, che avevamo, il mio amico Stefano Anselmo aveva nel suo database, particolari che coincidevano perfettamente, anche piccoli, piccolissimi, con quelle che erano, diciamo, le misure, i caratteri del volto, del busto, beh, sovrapponendo 20, 30, 50 strati diversi, siamo riusciti a produrre un volto umano reale. Quindi facendo un patchwork, un puzzle di tante immagini che voi avevate in questo database, mi scusi, immagini di volti risalenti a quell'epoca probabilmente? No, di volti anche contemporanei. Anche contemporanei? Oh, certamente, sì, ma naturalmente particolari minutissimi, che so, l'angolo dell'occhio, l'ombra della narice, la piega labiale, tante, tante piccole cose, in modo tale da non legarci ad un volto particolare, eccolo, ma diciamo appunto creare una sorta di puzzle, però il risultato è quello di un volto vero. Ecco, questa è la tecnica dell'imaging, appunto, certo, che dicevamo prima. E il volto che voi ci avete restituito è un pochino diverso da quello del busto di Berlino, come mai? E si capisce, per forza, perché se lei ci leva quelli che sono i canoni della dell'arte egiziana, canoni espressivi, beh, allora riemerge quella che era la realtà, o meglio, quella che poteva essere, secondo noi, la realtà. anch'io potrei essere truccato all'egiziana e mia moglie non mi conoscerebbe più. E infatti, per quel che riguarda la parte appunto del trucco che è stata eseguita da Stefano Anselmo, ecco, lì come avete fatto? Avete ricostruito in qualche modo quelle che erano le abitudini delle donne egiziane di quel periodo? Beh, sì, queste sono abitudini note, si conoscono, si sa che si dipingevano gli occhi, e si sa come l'occhio dovesse essere allungato, si sanno i colori che si usavano, si sa che si dipingevano le labbra, addirittura le regine avevano una squadra di persone, di donne che provvedevano a truccarle, pare usassero anche un fard per dare un po' di colorito alle guance, avevano una squadra di parrucchieri, ma figurati, per forza le donne ci tengono doverosamente e giustamente alla loro bellezza. Certo, 3000 anni fa come ora. Ecco, poi voi vi siete... Ecco, invece voi poi vi siete anche un po' divertiti, diciamo così, a truccarla, a pettinarla con qualche acconciatura moderna, così? Esattamente, questa è opera di Stefano Anselmo, che è un genio in queste cose, e naturalmente, siccome il busto prevede che la regina abbia la corona, ma non è che sotto fosse calva, aveva i suoi capelli, poverina, noi le abbiamo semplicemente restituito i capelli dicendoci, e se fosse oggi, metti, e volesse farsi tutta ricciolina ricciolina, o se volesse farsi con i capelli lisci a caschetto, ha capito? Come sarebbe? Certo. Lei sa che basta cambiare pettinatura e una donna diventa un'altra. Cambia il volto, certo. Ecco, sì. Tutte queste immagini che voi ci avete restituito saranno il frutto di un libro, giusto? Sì. Quando lo potremo trovare? Questa è una domanda imbarazzante, siccome non ci sarà soltanto la regina, ma ci saranno anche tanti altri personaggi dell'Egitto antico, diciamo che stiamo lavorando. Io mi auguro che nel giro di, diciamo, di 6 mesi il libro sarà pronto, ammesso che un editore lo voglia. Professore, abbiamo solo qualche secondo per riportare alla mente il mito di questa regina che forse viene ricordata soltanto per la sua bellezza? Beh no, non solo per questo, è stata una donna terribilmente importante all'epoca sua, in qualche modo fu vicina a suo marito che era il re, fu vicina in maniera strettissima anche da un punto di vista di quella che era la sua immagine politica, riuscì a dargli 6 figlie una dietro l'altra, naturalmente aspettavano il maschietto, ma il maschietto sembra che poi sia arrivato alla fine, e questo maschietto è nient'altro che Tutankhamon. Ah, benissimo, ecco, questo non lo sapevamo, insomma una first lady a tutti gli effetti. Ah, sì. Va bene, professore. Grazie mille e buon lavoro. Aspettiamo il libro, allora. Grazie a tutti. Sul sito del settimanale di scienza inglese New Scientist potete vedere un video molto curioso. Andate al nostro sito www.moebiusonline.eu e troverete il link. Se ve lo dicessi ora, è talmente lungo questo link che ci vorrebbero 10 minuti, che è su per giù il tempo in cui resta in volo il signore che vedrete in questo film, anche se il video dura meno. Ma questo signore non usa un deltaplano o marchingegni del genere, indossa solo una tuta che gli disegna intorno al corpo alcune sporgenze e nulla più. Siamo vicini all'antico sogno, cioè quello di volare come rondini e aquile. No, non è proprio così, ma in qualche modo sì. Prima però, ecco, sentite questa musica, un po' malinconica. È quella che accompagna un altro video, questo lo si vede su YouTube, il link lo trovate sempre sul nostro sito. È un filmato molto vecchio, siamo nei primi anni dell'invenzione del cinema e siamo a Parigi. È il 4 febbraio del 1904 e un giovane austriaco, di professione fa il sarto, ha deciso di lanciarsi dal primo piano della Tour Eiffel, che comunque questo primo piano è collocato ad almeno una settantina di metri dal suolo. Il sarto si chiama Franz Reichelt e, forte delle sue competenze di sarto, si è costruito anche lui una tuta. Già vedendogliela addosso prima del grande lancio, la sensazione che si ricava è quella di un apparato che potrebbe far di tutto tranne che sostenere in volo un uomo. Guardate, devo dirvi che questo breve filmato dura 1 minuto e mezzo, è di fatto l'ultimo minuto e mezzo di vita di un uomo. Tuttavia è difficile resistere alla sensazione di un evento tragicomico. Franz Reichel si presenta bardato nella sua tuta, in testa un cappello che si toglie e si rimette salutando, e poi lo vediamo sul bordo della balconata di ferro. Esita, ma non quanto dovrebbe, e infatti si lancia. Il filmato a quel punto è il prodotto di un'altra cinepresa disposta a terra, e nelle sue immagini vediamo un corpo che cade come un sasso, tremendamente perpendicolare. Quindi il che significa che la tuta non ha per nulla funzionato. Invece quelle di oggi paiono dare ottime prestazioni. Ci sono un po' di gruppi di ricerca, soprattutto due sparsi nel mondo, che stanno lavorando a questo progetto. I due sono in Inghilterra e in Sudafrica, e i primi risultati paiono arrivare. Naturalmente non sono folli come il povero sarto Franz Reichel, e quindi si portano appresso un paracadute per il momento. Dopo un lungo volo planato che può durare diversi minuti, lo aprono, e infatti le ricerche non hanno ancora raggiunto uno sviluppo che consenta un atterraggio tranquillo e controllato. Però lì si vuole arrivare. Queste tute moderne non cercano di imitare le ali dei pipistrelli o quelli dei grandi uccelli, anche Leonardo da Vinci pensò ad ali del genere. Si basano invece su altri principi, per esempio quello di far passare l'aria all'interno di piccole strutture tubolari di nylon. Questo meccanismo crea dei vortici che conferiscono al corpo una spinta verticale. I risultati si vedono già sul campo. Un paracadutista in caduta libera, cioè prima di aprire il paracadute, scende a una velocità di 195 km orari circa. Con queste tute invece ci si ferma intorno agli 80-100 km orari. Ma c'è anche una velocità orizzontale che si riesce a tenere per parecchi minuti, come vi ho detto, e che varia dai 110 ai 160 km orari. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Avete mal di testa? Può darsi che il gioco che vi proponiamo in questa puntata possa esservi utile, oppure no, forse non è adatto. Comunque preparatevi al nostro quiz. Come possiamo sapere quanto pesa la nostra testa? Ovviamente tenendocela sul collo, un eccesso di curiosità andrebbe evitato. Prima possibilità, scavate un buco in un prato e vi infilate una bilancia, un solo piatto, in modo però che questo piatto sia a filo con il terreno. Poi vi sdraiate, appoggiate la testa sul piatto e misurate. Il problema, come avrete intuito, è togliere di mezzo il più possibile il peso del corpo. Ci scriverete piatto in SMS. Seconda possibilità, riempite un secchio d'acqua, mettete un secchio in un catino più grande, trattenete il respiro, infilate la testa nel secchio, l'acqua esce, misurate il peso dell'acqua uscita, ci scriverete acqua. Terza e ultima possibilità è moderatamente rischiosa, appendete al soffitto una bilancia di quelle che danno una misura del peso ricavandola da una molla che si tende, al termine della molla c'è sempre un gancio, a questo gancio attaccate una corda che vi infilate al collo e che fate tendere molto lievemente, quel tanto che basta per avere una leggera sospensione, a questo punto avete una misura abbastanza precisa, ci scriverete molla. Dove al solito numero di SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana, Scienza Next Generation, 18 giovani scienziati ci parlano del futuro, edizioni Il Saggiatore. Di questo libro parleremo nella prossima puntata. In collaborazione con IBS.it. Su un libretto piccolo che ho qui davanti a me, è un libretto della collana Chiavi di lettura della Zanichelli, quindi sapete già di che cosa vi sto parlando, di libri. Il libretto è I vaccini dell'era globale, e su questo libretto, nelle prime pagine, c'è una bella foto di profilo della mummia del faraone Ramses V, c'è un allargamento di una parte della sua guancia, e da questa, come dire, da questo focus vediamo che il grande faraone era affetto vaiolo. Lisa Vozza, buonasera. Buonasera. Lisa Vozza, giornalista scientifica, divulgatrice, curatrice di collane, è autrice insieme a Rino Rappuoli di questo libro, I vaccini dell'era globale, della collana Chiavi di lettura di Zanichelli. Rino Rappuoli è uno dei più importanti virologi a livello internazionale, talmente importante che è sempre in volo. Volevamo intervistarlo insieme a lei, Lisa Vozza, ma non ce l'abbiamo fatta. Rappuoli ha anche conseguito ha ottenuto come premio per la sua attività la medaglia d'oro Sebin, che è il riconoscimento per, diciamo, gli scienziati più impegnati in questo settore, no? A livello internazionale. Sì, è il massimo riconoscimento per i vaccinologi, quelli che sviluppano i vaccini, e lui ha ottenuto questo premio, primo europeo a meritarselo. Allora, Lisa, anche il faraone aveva il vaiolo, siamo indietro di 4.000 anni, la storia, insomma, delle epidemie incominciamo a coglierla in quell'epoca. Ho visto che voi citate anche altri illustri colpiti dal vaiolo come George Washington, Abraham Lincoln, no? Per esempio, sì. Mozart. Sì, ma anche Beethoven e anche Stalin, che si faceva ritoccare tutte le fotografie per non far vedere le cicatrici che lasciava il vaiolo. Le malattie infettive non hanno mai fatto distinzioni di classe, quindi quando colpiscono, colpiscono duro e colpiscono un'intera società, un'intera civiltà. Questo è il caso della peste del 300 che ha fatto scomparire un'intera civiltà come quella senese nel giro di pochi mesi, ma è anche il caso di epidemie più lente, ma non per questo meno inesorabili, come quella di AIDS che da 30 anni circa colpisce il mondo intero, in particolare l'Africa subsahariana, dove il 30% della popolazione è infetta e dove un'intera generazione scompare, lasciando ragazzini orfani che crescono da soli, a cui non sono trasmessi saperi, tradizioni, conoscenze, e quindi sono alla mercé di guerre, di chi li assolda per fare qualunque cosa. Sì, certo, le grandi epidemie hanno anche la caratteristica in certe località dove si concentrano di togliere il futuro a un'etnia, a una popolazione, a un paese, perché tipicamente per esempio possono distruggere i giovanissimi, no? Un'intera generazione, quindi si crea un vuoto incolmabile. Esatto. Però ad un certo punto nella storia della medicina arrivano i vaccini. Sì, i vaccini hanno una storia molto antica, in realtà sì, ci sono tracce di pratiche proto-vaccinali addirittura nel V secolo a.C. in Cina e in India. Le dinastie imperiali cinesi si proteggevano per esempio dal vaiolo estraendo dalle pustole di persone ammalate dei residui che poi venivano usati per fare una incisione con un bastoncino di bambù in una persona sana, con l'idea che questo estratto potesse proteggere dal vaiolo, e in effetti in molti casi lo faceva. Cioè iniziano presto, ma in qualche modo qualcosa funzionava. Esatto, cioè l'idea che si potesse istruire il sistema immunitario, le nostre protezioni per difenderci dalle malattie è un'idea antica di cui l'uomo ha conoscenza veramente da molto tempo, però da qui a capire come perché funzionasse ce n'è passato di tempo. Noi abbiamo dovuto aspettare Lady Montagu, che era la moglie dell'ambasciatore inglese alla corte ottomana, lei malata di vaiolo e guarita, suo fratello malato di vaiolo e morto, lei scopre questa pratica di variolazione che era sostanzialmente uguale a quella che si usava in Cina molti secoli prima, in uso presso la corte ottomana, e quindi vuole assolutamente che i suoi figli non si ammalino di vaiolo e li fa variolare, ma davanti alla corte inglese, e quindi porta questa pratica appunto dall'impero ottomano, insomma dall'Oriente nell'Europa occidentale. Poi c'è Jenner che fa il primo esperimento nel 700, il primo esperimento controllato su un vaccino, cioè Jenner aveva sentito dalle contadine della campagna inglese che loro non si sarebbero ammalate di vaiolo perché avevano già preso la forma vaccina del vaiolo, che evidentemente dava una protezione, però era una diceria, una diceria. Era un falso, insomma, non era vero. No, era vero, ma non si sapeva, le persone dicevano questa cosa, no? E per una volta era una diceria vera, però diciamo che non c'era nessuno che avesse controllato che funzionasse veramente. Ho capito, non era stata analizzata. Esatto, Jenner cosa fa? Prende il materiale delle pustole del vaiolo vaccino, infetta con queste un bambino E poi lo espone al vaiolo umano, il bambino non si vaccina, ecco, non si ammala. Questa è la prima esperienza, il primo esperimento di una protovaccinazione. Compiuto. Sì. Mi sembra evidente che chi ci ascolta abbia capito che parliamo di vaccini, perché siamo in mesi in cui con l'H1N1, insomma, siamo all'interno di questo dibattito, vaccinarsi sì, vaccinarsi no. Adesso noi qualcosa diremo. Ci sono dei casi recenti, per esempio in Russia, nei quali una mancata vaccinazione abbiamo subito, immediatamente visto che danni ha portato. Sì, spesso io sento dire da persone che devono vaccinare i propri figli, ma perché li devo vaccinare? Le malattie ormai sono scomparse, è assurdo vaccinarsi contro malattie che non esistono più da 70 anni. Le malattie sono scomparse perché ci vacciniamo, ma i germi sono ancora tutti lì. Basta vedere appunto il caso della Russia: nel 1989 il regime sovietico crolla e il sistema sanitario nazionale ha qualche defiance pure lui, e si smette di vaccinare contro la difterite. Nel giro di veramente 2 o 3 anni ci sono epidemie da 140.000 casi e oltre 4.000 morti. Poi si corre rapidamente ai ripari, però il danno è grosso, e quindi non bisogna mai abbassare la guardia. È vero, senz'altro, che una vaccinazione può anche creare degli effetti collaterali che sono pesanti, possono essere anche letali, però nel vostro libro voi dite: confrontiamo questo rischio con altri rischi. E allora a quel punto scopriamo che, per esempio, in agosto, quando si prende la macchina per andare in vacanza, bene, dovremmo stare tutti fermi nelle nostre case. Dunque, i vaccini sono un manufatto umano, e come tutti i manufatti umani non esiste niente che sia privo di rischi. Però intanto sono manufatti umani estremamente ben testati, proprio perché si danno a persone sane, a bambini piccoli. Sono i farmaci più testati in assoluto, e sono i preparati medici che hanno un maggiore rapporto tra rischio e beneficio, cioè hanno rischi dell'ordine di 1 su 1 milione e benefici grandissimi, perché se sulla Terra siamo quasi 7 miliardi, anche probabilmente dovuto al fatto che siamo in moltissimi, siamo vaccinati. Per di più, i vaccini che una volta, i vaccini con cui siamo vaccinati noi, diciamo adulti, erano sicuramente preparati più crudi di quelli che si fanno oggi, grazie alle tecniche genomiche, per cui oggi si è in grado veramente di progettare un vaccino come fosse una Ferrari, conoscendone tutte le sue minime parti, e i test che si fanno oggi sono sicuramente molto più accurati e sicuri, e quindi siamo veramente di fronte a dei preparati estremamente sicuri. Sofisticati, certo. Ecco, Lisa Vozza, forse sarà sfuggito a molti che dal punto di vista tecnico-scientifico in questi mesi è avvenuto qualcosa di spettacolare. Sì, diciamo che è il frutto della preparazione che c'è stata a partire dalla grande paura dell'influenza aviaria, che per nostra fortuna non si è materializzata, ma ha permesso agli scienziati e alle grandi agenzie di salute pubblica mondiali di fare il punto della situazione. Il punto della situazione non era roseo. Nel 2003 negli Stati Uniti restavano solo 3 aziende che producevano vaccini, di cui solo 1 faceva vaccini contro l'influenza. Non si era pronti per produrre un vaccino di massa per la popolazione mondiale. Per fortuna sono stati investiti molti quattrini e sono state fatte molte preparazioni, diciamo che ci si è allenati per il rischio pandemia, tanto che ad aprile, quando si sono avuti i primi casi di influenza in Messico, in un pomeriggio la sequenza di tutti i geni del virus dell'influenza è stata letta e decifrata. E in meno di 6 mesi si è costruito un vaccino. Ora la popolazione ha reagito come ha reagito, i medici pure, però è un fatto assolutamente straordinario che si possa disporre di un vaccino in così poco tempo. Un vaccino che è stato costruito esattamente con le stesse tecnologie del vaccino antinfluenzale stagionale, che è stato somministrato a 45 milioni di persone negli ultimi 10 anni senza alcun problema. Certo, ricordiamo che il vaccino della poliomielite richiese più di 23-24 anni. Esatto, per essere, e per questo era il caso anche fino a circa 10 anni fa, cioè un vaccino prendeva circa 15 anni per essere costruito. Adesso nel caso dell'influenza ci si è riusciti in 6 mesi, perché il virus dell'influenza è un virus estremamente conosciuto e studiato, ma anche per germi o per virus meno conosciuti oggi si può fare un vaccino in circa 2 anni. I vaccini dell'era globale, Rino Rappuoli e Lisa Vozza, chiavi di lettura Zanichelli, un libro breve ma molto denso che vi spiega il contesto di questo problema della vaccinazione, delle epidemie nel quale effettivamente in questi mesi siamo immersi. Grazie Lisa Vozza. Grazie. E in effetti è così, si parlava di Stalin con Lisa Vozza, non c'è una sola foto di Stalin con le guance butterate dal vaiolo, ma sapete che anche nelle primissime foto di Gorbaciov la sua grande voglia, quella che ha sulla fronte, venne cancellata, poi dopo lui impartì subito indicazioni perché fosse reintrodotta. Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La plastica e la luce. Che relazioni si possono stabilire fra questi due mondi? Perché le sostanze plastiche sono talmente diversificate al loro interno che è corretto parlare di un mondo intero. Chiara Albicocco vi racconta come si possono avere delle nuove fibre plastiche che trasportano con grande efficienza i segnali luminosi. La fibra ottica è di plastica. Eh sì, un nuovo brevetto del Politecnico di Milano mette a punto uno strumento flessibile ed economico per le connessioni di rete locale, cioè quelle domestiche, insomma. Quali sono però i vantaggi rispetto alle fibre ottiche fino ad ora impiegate? Ecco, lo chiediamo a Guglielmo Lanzani, del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano e coordinatore di questo progetto europeo che si chiama Policom. Buonasera Lanzani. Buonasera. Ecco, intanto ci deve spiegare infatti che cosa avete brevettato. Sì, abbiamo brevettato un sistema che rende le fibre di plastica attive, fino adesso erano solo passive, e in più che permette di modulare, cioè di accendere e spegnere la luce in tempi brevissimi. Ecco, e forse dobbiamo spiegare brevemente che cosa vuol dire attivo e passivo. Cioè di solito la fibra ottica viene utilizzata per il trasporto della luce, questo si intende passivo, giusto? Esatto, sì. Nelle maggior parte delle applicazioni attuali le fibre di plastica trasportano la luce per illuminazione, banalmente, oppure in alcuni casi informazioni a rate bassissimi, cioè nell'ordine di qualche megahertz. Noi le abbiamo rese attive, quindi questo vuol dire che possono amplificare la luce, quindi diventano funzionali a delle applicazioni. E la seconda cosa, abbiamo introdotto un dispositivo che permette di modulare la luce, cioè di spegnerla e accenderla in modo molto rapido. Ecco. Questo permette di fare delle operazioni logiche, vuol dire di trasmettere un segnale, un'informazione e non solo una luce. Quindi trasportare anche dei dati e utilizzarlo appunto per le connessioni internet, per esatto, il trasporto di alcuni dati. Ok, forse non tutti sanno che cos'è una fibra ottica, vogliamo spiegarlo in brevissimo? Sì, una fibra ottica sfrutta il principio molto noto della riflessione totale, intrappolando la luce al suo interno, che rimbalza per riflessioni lungo le pareti e quindi propaga lungo la fibra. Questo permette di trasportare luce, che può essere un segnale, quindi un dato, un'informazione, quando è trasmesso in impulsi. Un impulso è un bit di informazione. Per sfruttare appunto questo fenomeno della riflessione totale, ovviamente il conduttore, il tubicino conduttore, deve essere trasparente. Fino ad ora, diciamo, quelle più in uso erano di vetro, infatti. Esattamente. La richiesta è che sia più denso del mezzo circostante. Quindi, per esempio, se deve intrappolare la luce in aria, sarà più denso dell'aria, perciò il vetro va bene, è trasparente. Trasparente perché non deve assorbire, deve trasmettere senza introdurre perdite. E più denso perché deve intrappolare la luce, cioè fare questa riflessione interna. Un po' come si vede anche con l'acqua nelle fontane quando sono illuminate da sotto. Certo. La luce rimane intrappolata negli zampilli d'acqua. Voi avete messo a punto questa fibra ottica plastica che ha dei vantaggi sicuramente rispetto al vetro, sicuramente in termini economici sia per il materiale ma anche per la manutenzione, così? Esatto, sì, questa è la cosa importante, è che le fibre di plastica sono più facili da installare, sono più facili da tagliare e poi riconnettere, non richiedono macchinari di alta precisione, usano luce nel visibile, quindi più facile da vedere, per esempio per controllare le perdite. Mentre quelle di vetro utilizzano l'infrarosso. Esatto, utilizzano una lunghezza d'onda che non è visibile all'occhio, sono tra 1,3 e 1,5 micron, quindi l'infrarosso. E infine permettono angoli di curvatura maggiori, cioè hanno proprietà meccaniche, quindi più interessanti, per esempio cablare piccoli spazi. E quindi, siccome hanno anche un difetto, quello di assorbire più luce rispetto a quelle di vetro, vengono usate per piccole aree in cui è necessario distribuire dei dati o della luce o delle informazioni, per esempio all'interno di un'automobile, di un autobus, anche più grande, una nave può essere cablata con le fibre ottiche di plastica. Perché non si può utilizzare in distanze più ampie, forse superiore ai 100 metri più o meno possiamo dare questo limite? Sì. Quello è perché comunque le fibre sono fatte di un polimero, si chiama PMMA, che qualcosa assorbe perché ha delle transizioni, quindi in parole semplici, diciamo, ha dei meccanismi di perdita, di assorbimento della luce, per cui dopo 100 metri non c'è più segnale sufficiente. Tuttavia quello che noi abbiamo fatto, cioè introdurre un amplificatore, permette di recuperare il segnale, perciò di lavorare anche su distanze maggiori. Anche l'efficienza mi sembra che ne abbia guadagnato. Il vostro brevetto è in grado di processare un segnale ottico ad altissima frequenza, 1 gigabyte al secondo per 100 metri. Quello è il risultato pratico, ma in linea di principio noi abbiamo dimostrato uno switch che può andare, cioè un modulatore che può andare a 10 terahertz, cioè una frequenza 1000 volte maggiore di quella dei giga che ha nominato. Quindi come risultato, diciamo come record, abbiamo ottenuto un valore molto più alto di modulazione, che potrebbe permettere in linea di principio la trasmissione di una banda più larga di quella attualmente utilizzata. Le caratteristiche positive di queste fibre ottiche mi sembra di averle capite, insomma la flessibilità, i bassi costi, ma sono anche belle, se vogliamo dire così, perché voi le avete create verdi e rosse. C'è anche un motivo pratico del colore. Sì, sono il colore da noi è selezionato perché le finestre di trasmissione, cioè quei colori a cui la dissipazione è minore, sono nel verde e nell'arancione e nel rosso. Certamente come ricaduta abbiamo ottenuto degli oggetti flessibili, luminosi, che possono essere inseriti nei tessuti, per esempio, perché sono fibre, e possono essere inseriti poi in ornamenti, per esempio nell'arredamento, anche nell'edilizia, nei cartelli, nella segnaletica, quindi hanno una serie di ricadute che abbiamo proposto all'industria delle fibre ottiche di plastica e speriamo verrà raccolta. Quando potremo trovarle in commercio? C'è già qualcosa? Beh, per le applicazioni più spinte, quelle che abbiamo detto di modulazione, sicuramente ci vuole più tempo perché anche il mercato non è pronto, 5-10 anni. Ma per quelle più vicine, cioè l'uso di queste fibre nei tessuti o in tante applicazioni collaterali, sicuramente c'è una possibilità più concreta. Nel consorzio del nostro progetto è presente una piccola preindustria del Bresciano che si chiama Luciat, che ha partecipato a tutto il progetto europeo e che è il nostro primo utente che potrebbe occuparsi della sviluppo e commercializzazione di questi prodotti. Va bene, allora insomma aspettiamo le future applicazioni. Grazie mille Lanzani e buon lavoro. Grazie a voi e arrivederci. Sì, ha ragione Barbara Gallavotti, che inizia il prossimo servizio con la giusta considerazione che sotto un primo strato nel quale si fa un gran rumore sulle differenze, sotto questa linea di superficie tutta l'umanità ha un sacco di problemi uguali, della stessa natura. Minareti e campanili possono sembrare molto diversi, ma basta guardare cosa avviene alle loro ombre per rendersi conto di come gli esseri umani che vi abitano spesso si trovino ad affrontare problemi simili. Per esempio, ecco cosa si scopre spigolando fra le notizie che riportano il dibattito scientifico nel Nord Africa e Vicino Oriente. In primo luogo, anche nel mondo arabo, quasi tutti i governi hanno ufficialmente riconosciuto il ruolo strategico di scienza e tecnologia per lo sviluppo economico. Girando per i laboratori, però, la situazione appare, diciamo, precaria, per usare un termine a noi familiare. Nonostante alcune esperienze di punta, come quelle in Qatar, i paesi arabi continuano ad avere una delle spese in ricerca più basse del mondo. Un rapporto appena uscito registra che sono aumentate le collaborazioni scientifiche fra paesi arabi e resto del pianeta, ma la mancanza di fondi e di apparecchiature adeguate penalizza comunque i ricercatori di Nord Africa e Vicino Oriente. Il problema principale resta tuttavia la scarsa abitudine al pensiero indipendente, accuratamente coltivata da governi autoritari e che si esprime anche in un sistema scolastico inadeguato a stimolare curiosità e creatività. Nei paesi arabi, come in tutto il mondo, una delle prime e più illustri vittime di un'educazione vacillante è la teoria dell'evoluzione. Proprio a Darwin e alla sua teoria è stata dedicata un'affollata conferenza organizzata presso la Biblioteca di Alessandria d'Egitto con la collaborazione del British Council, l'agenzia britannica che si occupa di cultura. Lo scopo era ovviamente discutere un tema, l'evoluzione, che in tutto il mondo rischia di divenire sempre più tabù man mano che si radica la discutibile convinzione che sia incompatibile con i credo religiosi. E non è un caso che il direttore della biblioteca, l'eclettico Ismail Saraghettin, già esponente di punta della Banca Mondiale, abbia aperto la conferenza proprio citando il Corano, laddove si invita a studiare la natura, e poi uno dei padri della cultura islamica, il medico Ibn al-Nafis, che nel XIII secolo diceva: «Quando ascolti qualcosa che appare strano, non rifiutarlo immediatamente, perché sarebbe sciocco farlo. Cose orrende possono essere vere, e cose familiari e amate possono essere false. Ciò che è vero lo è in quanto tale, non perché la gente proclama che lo sia». Insomma, forse all'epoca di Ibn al-Nafis la conoscenza poteva essere un lusso riservato a pochi, ma nel nostro mondo sembra che vi sia bisogno del contributo intellettuale di tutti per mantenere il benessere a cui siamo abituati o per conquistarne uno maggiore. E di questo si parla con preoccupazione là dove risuona il richiamo delle campane, come pure là dove canta il muezzin. Shani Brulé fa il DJ ed è di origine francese. Finiscono qui le informazioni non sorprendenti che lo riguardano. Poi si continua dicendo che lui, il DJ, lo fa in una radio locale che trasmette nel Borneo. La radio si chiama Radio Kalawait, che nella lingua locale significa Radio Gibboni. Sì, le scimmie. Stiamo parlandovi di loro e del fatto che Shani Brulé ha messo in piedi questa radio per salvare i gibboni, che sono non tanto in pericolo di estinzione, non è che ce ne sono tantissimi comunque, ma più che altro in pericolo di trasformazione. Infatti la popolazione che abita le coste del Borneo ha l'abitudine di prendere i gibboni, metterli in gabbia e tenerli come se fossero degli uccellini. Come mai avviene questo? Ecco, allora la risposta che possiamo darvi contiene anche la motivazione che spinge un DJ a interessarsi dei gibboni. Infatti, ascoltate le voci di queste tenerissime scimmie. Ecco, sentite. Sarete d'accordo che è difficile affermare che questi splendidi animali non stiano cantando. Quindi Shani si è innamorato di loro, comprensibile. Tenendoli segregati dentro una gabbia, i problemi di un reinserimento nella foresta sono notevolissimi, perché qui dobbiamo dire che dopo un periodo iniziale nel quale la gente non amava molto Radio Gibboni e la sua missione, poi invece le cose sono cambiate e soprattutto molti giovani hanno capito che questi animali non bisogna chiuderli in gabbia. Però i gibboni sono monogami e quindi se vengono catturate le coppie e poi separate, perché finiscono in famiglie diverse, si ha un vero e proprio disastro. Perché rimetterli insieme, beh, come si fa? È praticamente impossibile. Ecco allora che bisogna agire all'origine e non prenderli, questi gibboni, lasciarli dove sono. Oppure, se proprio si vuole, si può tentare di formare una coppia, come fu a suo tempo Albano e Romina Power, che forse potrebbe durare, perché i gibboni e le gibbone, non credo che si possa dire così, sono monogami e fedeli. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz, spero non siate stati avventati. Il sistema migliore per pesare la vostra testa è assolutamente sicuro. Vi bagnerete un po', ma volete mettere questo piccolo disagio a confronto con la soddisfazione di pesare la parte più importante del vostro corpo? Ecco, allora, se infilate la testa nel secchio d'acqua, tutta l'acqua che uscirà sarà direttamente proporzionale al volume del vostro cranio. Ora, tutto il nostro corpo è essenzialmente liquido, il teschio è leggerissimo, e questo liquido è anche in gran parte acqua. Un litro d'acqua pesa un chilo, se sono usciti 4 litri d'acqua, la vostra testa pesa 4 chili. Misura precisa Precisissima no, in media c'è un errore di 3 o 4 etti che potete tendenzialmente aggiungere. Questa era la soluzione del quiz. Tutta la comunità scientifica americana, prima delle elezioni di Obama, prima delle elezioni del presidente, aveva detto: per favore mandateci uno che sappia che cos'è la scienza. Se abbiamo un presidente con queste caratteristiche, dicevano, si procurerà dei consiglieri che anche loro, a maggior ragione, sappiano che cos'è la ricerca scientifica. Richard Mueller è uno di questi, Obama l'ha scelto. Maurizio Melis, ciao. Ciao Federico. L'ha intervistato, lui è consigliere alla Casa Bianca. È consigliere alla Casa Bianca, tra l'altro è stato autore di un libro che si chiama Fisica per i presidenti del futuro, nel quale appunto esplora tutti questi aspetti, e pare che Obama l'abbia letto. Allora, ci sembra importante, a poche ore dell'apertura di Copenaghen, sentire l'opinione di questo personaggio che ci dà un po' il contesto tecnico. Opinione comunque è presa in considerazione. Dunque, Richard Mueller è professore di fisica alla University Berkeley di California, è associato al Dipartimento di Fisica Nucleare e di Particelle ed è famoso per questo libro. La prima domanda che gli ho fatto, proprio avendo letto il libro, è per quale ragione lui considera il risparmio energetico come la via di gran lunga preferibile per iniziare questa trasformazione verso la sostenibilità. To be sustainable. Per essere sostenibile, l'energia deve essere tale anche dal punto di vista economico. Tra i molti modi che ci sono per investire denaro nel settore energetico oggi, quello di gran lunga migliore è il risparmio energetico. Il ritorno economico che si può ottenere con un intervento finalizzato al risparmio energetico raggiunge facilmente il 15 o 20% all'anno. Quindi è molto alto. Solo che ottenete questo rendimento risparmiando energia anziché producendola. E questo non costa molto. Se per esempio avete un cattivo tetto o lo isolate meglio, in modo da usare meno il riscaldamento invernale, potreste persino recuperare l'investimento in un paio d'anni. Non esiste altra forma di investimento con la quale spendete 1000 euro e in 2 anni li avete indietro. Mi pare che nel suo libro lei lasci anche intendere che puntando sul risparmio energetico si può attuare una sorta di transizione dolce, mentre al contrario cambiare bruscamente le fonti energetiche comporterebbe una transizione traumatica. Certamente, ci vuole molto tempo per mettere a punto nuove energie, mentre è molto più semplice realizzare tetti isolati meglio, o automobili che consumano meno per fare lo stesso tragitto e con lo stesso comfort. Dalle mie parti si dice che si fa prima a mangiare la frutta caduta per terra che non a salire sull'albero per raccoglierla. Parlando invece di nuove fonti di energia, lei ripone molte speranze nel solare, un campo nel quale si stanno sperimentando diverse nuove soluzioni. Qual è secondo lei la più promettente? In effetti ci sono molte nuove tecnologie emergenti nel campo del solare e molte di queste promettono di costare poco e raggiungere buone efficienze. Ed è questa la combinazione di cui c'è bisogno. La gran parte di queste tecnologie appartengono alla classe dei film sottili e sono sviluppate un po' dappertutto nel mondo. La mia preferita è detta GIGS, Copper Indium Gallium Diselenide. È qualcosa che sostanzialmente si può spruzzare su una superficie, riscaldare, e a quel punto diventa una cella solare. È una tecnologia destinata a scendere sotto l'euro per watt installato. Un'altra tecnologia interessante è l'arseniuro di gallio. Si tratta ancora una volta di un film sottile, per di più flessibile. Quando pensiamo a queste tecnologie, il paragone è con i computer. Tutti abbiamo ben presente quanto il loro costo sia diminuito negli anni. Ebbene, credo che tra pochi anni il costo di queste tecnologie sarà basso al punto che il grosso dei costi sarà rappresentato dall'installazione, dai fili per le connessioni e dall'elettronica per far funzionare il tutto. Cosa pensa di tutte le nuove tecnologie che invece cercano di esplorare nuove possibilità di intercettare l'energia presente nell'ambiente? Penso alle maree, penso all'eolico di alta quota, al geotermico indotto, quello ad elevata profondità. C'è persino chi studia come estrarre l'energia dal rumore. There are many sources of energy. È vero, ma quello che bisogna fare è domandarsi quanta energia si può tirare fuori da là per ogni euro speso. Il geotermico è un eccezionale successo in Islanda e in California, e ovunque la terra concentri energia e la renda disponibile, va sfruttata. ma per lo più il geotermico non è una buona fonte di energia. Facciamo un esempio. In pieno sole la densità di energia è di circa un kilowatt per metro quadro, mentre mediamente l'energia geotermica rilasciata dal terreno è un decimo di watt per metro quadro, 10.000 volte meno. Perciò, se lei vuole sfruttare il geotermico per produrre energia elettrica, avrebbe bisogno di una tecnologia geotermica che costa 10.000 volte meno, e questo è praticamente impossibile. Stesso discorso per le onde. In Italia non ci sono molte onde, ma anche se va in California, dove di onde ce ne sono parecchie, si tratta comunque di costruire degli impianti in mezzo all'acqua salata, rischiando di dover rifare tutto ogni 10 anni a causa della corrosione. Io ho una società che si occupa di vagliare tutte queste possibilità e di contribuire a prendere le decisioni giuste. La domanda è sempre la stessa. È economicamente sostenibile? Ci sono molti casi in cui l'energia non manca, ma estrarla costa decisamente troppo. Bisogna sempre ricordarsi che c'è il carbone e che il carbone costa pochissimo. È un problema perché il carbone è anche estremamente inquinante, ma non bisogna farsi illusioni. Nel mondo non c'è abbastanza ricchezza perché si possa rinunciare al carbone senza che sia stata individuata un'alternativa economicamente competitiva. Dunque lei non fa mistero di essere favorevole al nucleare. Tuttavia, ecco, la mia impressione perlomeno è che siamo in un momento storico un po' particolare, con le rinnovabili che hanno trend di crescita impressionanti, mentre il nucleare sembra essere entrato in una fase di transizione tecnologica verso in particolare le centrali di quarta generazione. Tra l'altro il tema del nucleare tocca molto da vicino la cronaca italiana, dato che, come forse lei sa, si parla di tornare al nucleare dopo uno stop di circa 20 anni. La mia domanda è un momento buono questo per investire sul nucleare? Guardi, la mia opinione è che già la seconda generazione non fosse niente male. Indubbiamente la terza e la quarta generazione sono migliori, ma io non aspetterei la quarta generazione per investire sul nucleare. Il nucleare è stato rigettato perché la gente non aveva familiarità col nucleare ed era spaventata perché gli sono state raccontate storie spaventose, mentre contemporaneamente sembrava che ci fossero buone alternative, come per esempio il gas. Oggi dipendere dal gas significa dipendere da paesi come la Russia, e questa per molti non è una prospettiva attraente. Il petrolio è stato per lungo tempo molto economico ed è stato considerato per lungo tempo privo di rischi, almeno negli Stati Uniti. Eppure io ritengo che il mio paese sia entrato in guerra con l'Iraq a causa del petrolio. Quindi non è vero che il petrolio non comporta pericoli. Anzi, è estremamente pericoloso, dato che migliaia di persone sono uccise a causa del petrolio. La quarta generazione ha dei vantaggi e quindi è indubbiamente una cosa da fare. Tuttavia la situazione è la stessa che si verifica quando deve comprare un computer. Se lei non lo compra quest'anno, sicuramente l'anno prossimo ne comprerà uno migliore. Ma ragionando così, non ne comprerà mai uno. Adesso voglio farvi fare un esperimento. Vi ho già fatto infilare con il quiz la testa nell'acqua e quindi proseguo su questa linea. Gli ingredienti per questo esperimento sono 2 catini grandi, abbastanza per infilarvi una mano in ciascuno dei catini, e 1/3 catino che permetta l'inserimento di tutte e 2 le mani. Poi ci vogliono 3 brocche d'acqua, una calda, una fredda, l'altra tiepida. E poi ci vogliono 2 mani. Infatti questo esperimento, quando veniva proposto sulle isole della Tortuga nel 1700, quando erano abitate da migliaia di pirati, fra i quali il 50% avevano uncino, questo esperimento non piaceva e generava anche sgradevoli conseguenze. Allora si procede così. Infilate una mano nel catino di acqua calda, l'altra in quello dell'acqua fredda. State lì con le mani nell'acqua per 1 minuto e mezzo. Sentirete sia caldo che freddo, e questo è banale. Adesso sollevate le mani e infilatele tutte e 2 nel catino dell'acqua tiepida. Cosa vi aspettate di sentire? Bene, la mano che stava nell'acqua calda adesso sente freddo e l'altra mano sente caldo provenendo dall'acqua fredda. Dopo un po' le sensazioni convergono e si sente la temperatura intermedia. Come mai accade ciò? Dunque dovete concentrarvi sul fatto che il nostro sistema sensoriale è spesso un misuratore di differenze. Mi spiego meglio. Non è che noi sentiamo la temperatura in astratto, in generale. noi sentiamo la differenza che c'è fra 40 gradi e 60 gradi, per esempio. Allora, la mano che arriva da una temperatura di 40 gradi e viene immersa in un'acqua tiepida a 18 gradi, poniamo, bene, la percepirà come fredda, perché di fatto è molto meno calda di quella da cui proviene. Analogamente per l'altra mano, la mano che viene dal freddo, sembra la parodia di un film thriller sui servizi segreti, detta così, la mano che viene dal freddo, e va bene, rovesciato si ha lo stesso effetto. Poi le cose, come vi ho detto, tornano normali e percepiamo la tiepidezza. Questo passaggio si chiama processo di adattamento, che sembra una banalità, ma è invece uno dei comportamenti automatici più importanti per gli esseri viventi. Se venisse a mancare, si perderebbe il meccanismo fondamentale di relazione con l'ambiente. Meccanismo che però a volte crea anche dei curiosi problemi. Per esempio, un tipico processo di adattamento è quello che avviene con gli odori. Entriamo in un certo luogo, il famoso ristorante cinese nel quale aleggia un'aria di frittura micidiale, e sentiamo benissimo questo odore. Dopo un'ora di pranzo, però, chiacchierando con gli amici, l'odore di frittura scompare dal nostro naso, ma non dai nostri vestiti. Se quell'odore ci dà fastidio, l'adattamento ha eliminato il problema, però vuole anche dire che ci portiamo appresso qualcosa di sgradevole e non ce ne accorgiamo per un po' di ore, finché qualcuno non ci dice: ah, sei stato al ristorante cinese. Un caso di adattamento molto diverso è quello dei suoni. La gente che si trova a lavorare in ambienti con una certa rumorosità è dimostrato da diversi esperimenti che riescono a sviluppare una specie di filtro che elimina il rumore di fondo e consente di parlare con colleghi di lavoro, sintonizzandosi insomma sulle voci umane. Il rumore non fa bene, però la mancanza di comunicazione sarebbe ancora peggio. Infine la luce, ecco, usciamo da un ambiente poco illuminato e ci troviamo in una piazza assolata. Senza adattamento saremmo accecati. Abbiamo aperto con la bella Nefertiti, speriamo che tutta la puntata di Möbius vi sia sembrata tale. Buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo la prossima settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.